Capitolo 68. Salmoneo e Tiro. Salmoneo, figlio nipote di Eolo e di Enarete, regnò per qualche tempo in Tessaglia prima di guidare una colonia di Eoli verso i confini orientali dell'Elide, dove edificò la città di Salmonia presso le sorgenti del fiume Enipeo, un affluente dell'Alfeo. Salmoneo era odiato dai sudditi e spinse la sua regal tracotanza fino al punto di far sacrificare sui propri altari le vittime destinate a Zeus e di proclamare che egli era addirittura Zeus. Percorreva le vie di Salmonia trascinando dietro il suo cocchio dei calderoni di rame legati con corregge di cuoio e che col loro clangore simulavano il tuono di Zeus, e frattanto scagliava nell'aria torce ardenti che a volte ricadevano sui suoi sventurati sudditi costretti a crederle folgori. Un bel giorno Zeus punì Salmoneo scagliando contro di lui una vera folgore che non soltanto incenerì il re sul suo cocchio, ma distrusse l'intera città. Alcidice, moglie di Salmoneo, era morta molti anni prima, dando alla luce una bellissima figlia chiamata Tiro. Tiro fu affidata alla matrigna Sidero, che la trattò con grande crudeltà perché la considerava la causa dell'espulsione della sua famiglia dalla Tessaglia. Infatti Tiro era stata condannata per aver ucciso i due figli concepiti dal suo malvagio zio Sisifo. Essa si innamorò del fiume Enipeo e ogni giorno vagava lungo le sue rive piangendo. Ma il dio del fiume, sebbene divertito e lusingato da tale passione, non la incoraggiava affatto. Posidone decise di approfittare di questa ridicola situazione e, preso l'aspetto del dio fiume, invitò Tiro a raggiungerlo alla confluenza dell'Enipeo con l'Alfeo. Colà la fece cadere in un sonno magico, mentre una nera onda alta come una montagna gonfiava la cresta spumeggiante per far da schermo alla fellonia del dio. Quando Tiro si destò e si accorse di essere stata violentata, allibì. Ma Posidone rise e le disse di tornare a casa e di non parlare con nessuno dell'accaduto. Come ricompensa, aggiunse, avrebbe dato alla luce due bei gemelli, figli di un padre molto superiore a un semplice dio del fiume. Tiro fu costretta a mantenere il segreto finché diede alla luce i gemelli, ma poi, non avendo il coraggio di affrontare la collera di Sidero, li espose sulla montagna. Un guardiano di cavalli che passò per caso accanto ai neonati li portò a casa sua, ma non poté impedire che una delle sue giumente colpisse il maggiore dei gemelli con un calcio al viso. La moglie del guardiano di cavalli si occupò dei piccoli. Fece allattare il maggiore dalla giumenta che lo aveva sfregiato e lo chiamò Pelia. L'altro, chiamato Neleo, prese la sua natura selvaggia dalla cagna che gli fu nutrice. Ma altri dicono che i due gemelli furono ritrovati in un'arca di legno che galleggiava sul fiume Enipeo. Non appena Neleo e Pelia seppero chi fosse la loro vera madre e quali maltrattamenti avesse dovuto subire, decisero di vendicarla. Sidero si rifugiò nel tempio di Era, ma Pelia la colpì a morte mentre essa si aggrappava alle corna dell'altare. Questo fu il primo dei molti oltraggi fatti da Pelia alla dea. Tiro sposò in seguito suo zio Creteo, fondatore di Iolco, e a lui generò Esone, padre di Giasone, l'argonauta. Creteo adottò anche Pelia e Neleo come suoi figli. Dopo la morte di Creteo, i gemelli vennero alle mani. Pelia si impadronì del trono di Iolco, esiliò Neleo e tenne Esone prigioniero nel palazzo. Neleo guidò i nipoti di Creteo, Melampo e Biante, con un gruppo di Achei, Ftioti ed Eoli, verso la regione messenica dove scacciò i Lelegi da Pilo e portò la città a un tale splendore che ne viene ora ricordato come il fondatore. Sposò Cloride, ma tutti i loro 12 figli, salvo Nestare, furono poi uccisi da Eracle. Antigono di Caristo parla di un cocchio di bronzo, propiziatore di pioggia custodito a Crannon. Nei periodi di siccità lo si faceva correre su un terreno accidentato perché tintinnasse e anche, come si vede su monete crannonie, perché spruzzasse tutt'attorno l'acqua contenuta nelle giare che vi stavano sopra. Secondo Antigono, ciò provocava infallibilmente la pioggia. È dunque probabile che il rito magico di Salmoneo per scatenare i temporali fosse una pratica molto diffusa. come quella di scuotere sassolini in un otre vuoto o di bussare a porte di quercia o di danzare battendo sugli scudi o di agitare rombi. Salmoneo venne descritto come un criminale soltanto dopo che l'identificazione del re con Zeus fu proibita dagli Achei. A giudicare dai setacci delle Danaidi e dalla danza della vacca argiva, i riti propiziatori di pioggia erano in origine una prerogativa femminile e lo sono rimasti in certe primitive tribù africane come gli Erero e i Damara. Ma passarono nelle mani del re sacro quando la regina gli permise di agire come suo sostituto. Tiro era la dea madre dei Tiri e dei Tirreni o Tirseni e forse anche dei Tirinzi. Il suo nome è probabilmente preellenico, ma ne derivò la parola greca Tirsis, città fortificata, e il concetto di tirannia. I maltrattamenti che subì da parte di Sidero ricordano la leggenda di Antiope e Dirce. Assai simile a questa e può darsi che rispecchi l'assoggettamento dei Tiri ai loro vicini, i Sidoni. Si credeva che l'acqua del fiume fecondasse le spose che vi si bagnavano. Tale bagno era prescritto come rito purificatore dopo la mestruazione o il parto, ed è probabile che l'Enipeo di Tiro, come lo Scamandro, fosse invocato come fiume che toglie la verginità. L'aneddoto di Tiro, sedotta da Posidone, serve a spiegare perché i discendenti di Salmoneo fossero chiamati ora figli di Enipeo, ora figli di Posidone, per via della loro fama di navigatori. Il fatto che Tiro fosse stata in precedenza sedotta da Sisifo lascia supporre che il culto corinzio del sole fosse giunto sino a Salmonia. Antiope era pure imparentata per matrimonio con Sisifo. L'arca di legno che conteneva i due gemelli affidati da Tiro alla corrente dell'Enipeo era probabilmente costruita con legno di ontano, come l'arca in cui Rea Silvia depose Romolo e Remo. Il litigio fra Pelia e Neleo, come quelli tra Eteocle e Polinice, Acrisia e Proteo, Atreo e Tieste e altre coppie di re, pare ricordi la fine del sistema grazie al quale il re e il successore regnavano alternativamente per 49 o 50 mesi nello stesso regno. Le corna dell'altare cui si aggrappò Sidero ornavano di solito il simulacro della dea vacca Era, Astarte, Io, Iside o Hathor. Pelia, pare, fu un conquistatore acheo che riorganizzò con la forza il culto della dea eolica nella Tessaglia meridionale. In Palestina gli altari ornati di corna come quello cui si aggrappò Joab sopravvissero alla detronizzazione della vacca lunare e del suo agnello d'oro.